La conosci? È lei, la Ivanovna, la vecchia usuraia che vive a 3 isolati da qui. Ma sì, certo, quella vecchia strega mi ha preso denaro in cambio di oggetti. Ci sono stata 4 giorni fa. Le ho portato una cornice d'argento appartenuta a mia madre, di grande valore, credimi. Le avevo chiesto almeno 4 rubli per la cornice. Lei me ne ha voluti dare 1,5. Maledetta strega, non ha la minima pietà di noi disperati che ci rivolgiamo a lei. Ha 2 occhi così perfidi, non ha anima. Pensa solo ad accumulare denaro e ricchezza, è un demonio. Ti assicuro che la scozzerei senza il più piccolo scrupolo di coscienza. Aspetta, pensa un attimo. Da un lato una vecchia, insulsa, assurda, miserabile, cattiva, malata, che non è utile a nessuno e che tanto molto presto morirà. Sì, e dall'altro lato energie giovani e fresche che vanno in valore. 100.000 opere e buone iniziative che si potrebbero avviare a realizzare con i soldi della vecchia, che invece li ha destinati a un monastero. Centinaia, forse migliaia di esistenze indirizzate sul giusto cammino, decine di famiglie salvate dalla miseria. Ammazzala. Prendi i soldi della vecchia e mettili al servizio dell'umanità. Non credo che un piccolo delitto sarebbe compensato da migliaia di buone azioni. Per una vita, migliaia di vite, una morte, 100 vite, è matematica. Già, cosa conta sulla bilancia collettiva la vita di quella vecchia, stupida, tisica e malvagia? Non più della vita di un pidocco, di uno scarafaggio. Certo, è indegna di vivere, ma tu... avresti il coraggio di ucciderla. Devo andarci. Ma se non riesci neanche a stare in piedi. No, devo andarci. Come vuoi, come vuoi. Egli verrà e chiederà dov'è la fanciulla che si è sacrificata per la sua matrigna, per i bambini che non erano suoi fratelli. Dov'è la fanciulla che ha avuto pietà del suo padre ubriacone e non è scappata da lui? Perdonerà solo che per quello che è costretto a fare, io lo so che la perdonerà. Poi verrà il nostro turno. Avvicinatevi, ci dirà. E noi ci avvicineremo. E lui ci dirà. Voi! Voi siete dei porci! Assomigliate a delle bestie, ma non importa! Venite ugualmente a me! E i saggi gli chiederanno, perché signore? Perché ricevi costoro? Ed egli risponderà, io li ricevo perché nessuno si è ritenuto degno di questo favore! E poi si aprirà le braccia, sì! E noi correremo da lui piangendo! E soltanto allora, sì, soltanto allora! Avremo capito tutto! Morì così il signor Marmeladov. Ubriaco, non si accorse di una carrozza che arrivava a tutta velocità. Morì così il signor Marmeladov, dopo che in quella bettola aveva raccontato la sua storia a un giovane, davanti a quella sua ultima bottiglia di vino. Quel giovane aveva colpito il signor Marmeladov per i suoi stessi occhi tristi. Il nome di quel giovane era Rodion formalità. Due giorni fa qualcuno si è introdotto nell'appartamento di una vecchia usuraia, una certa Elena Ivanovna. Le ha spaccato la testa con un'ascia e se n'è andato dopo aver preso alcuni oggetti preziosi e un centinaio di rubli. Ne ho sentito parlare, una storia orribile. Già, davvero orribile. Nell'appartamento della vittima abbiamo trovato alcuni oggetti preziosi che gli appartengono. Dovete comunicarci se volete riscattarli. Come vi ho detto, burocrazia. Io vi ringrazio, ma al momento non ho molti soldi, quindi posso solo dichiarare che gli oggetti sono miei e poi quando avrò più soldi... Ma certo, non c'è qui tutta questa fretta, signor Raskolnikov. Quando sarete in grado di riscattarli potete scrivere a me direttamente. Su carta semplice, vero? Della più semplice. Io vi ringrazio per avermi fatto chiamare, ma quegli oggetti non valgono che pochi rubli, non vorrei tediarvi troppo. È mio dovere. L'orologio. All'orologio sono molto affezionato, è l'ultimo ricordo che ho di mio padre. Mia sorella è da poco venuta qui a Pietroburgo a trovarmi e sarebbe un dolore per lei sapere che non è più in mio possesso. Vostra sorella è venuta a trovarvi? Sì. All'università per mancanza di mezzi e che non dà di più le tue lezioni. Ma ora mi hai trovato, Rodia. Le cose sono cambiate. Ti basti pensare che mentre ti scrivo sono su un treno diretto a Pietroburgo. Sì. Nella tua ultima lettera mi domandavi chiarimenti sulla mia posizione presso la famiglia Svidrigailov, dove lavoravo come istitutrice. La verità è che il signor Svidrigailov cominciò a farmi proposte disonoranti, dicendo che voleva lasciare la sua famiglia, scappare con me. La moglie, Maria Petrovna, ci sorprese in uno di questi momenti e il signor Svidrigailov diede la colpa di tutto a me. Maria Petrovna arrivò perfino a percuotermi, a cacciarmi di casa. Lo capisci adesso, il mio silenzio, Rodia? Come potevo metterti a parte di tutto ciò? Se non bastasse, la voce fu messa in giro da Maria Petrovna e io finii sulla bocca di tutti, diffamata, disonorata. No, ti prego, stai tranquilla, Rodia. Io ti scrivo proprio per dirti che tutta questa brutta storia è finita e che adesso le cose non potrebbero andare meglio. Sì, Rodia. Fu proprio il signor Svidrigailov che rissa tu e che confessò tutto alla moglie, dandole anche come prova una lettera che io gli avevo scritto, nella quale lo rimproveravo per la sua condotta verso la moglie e verso la sua famiglia. Maria Petrovna si gettò tra le mie braccia per chiedermi perdono, poi si recò presso tutte le famiglie della città per celebrare la mia onestà, la nobiltà dei miei sentimenti. E questo ritorno della pubblica considerazione è stato la causa dell'inatteso avvenimento che oso dirlo muterà il corso delle nostre esistenze. Sappi, caro Rodia, che ho ricevuto una proposta di matrimonio e che ho già accettato. Si chiama Petrovich Kluzin, è il consigliere. Sì, il consigliere di corte. È lontano parente di Maria Petrovna. Fu lei a introdurlo in casa per un caffè e il giorno dopo egli mi recapitò una lettera nella quale mi faceva la sua domanda di matrimonio. Sì, la risposta però deve essere rapida e precisa, non posso perdere troppo tempo, sono un uomo d'affari io. Io rimasi un poco meravigliata di questa domanda così improvvisa. Ma che cosa vuoi? Petrovich Lucin occupa un'ottima posizione ed è già ricco, è un uomo serio e distinto, forse sì, un po' freddo e superbo, no? Le apparenze possono ingannare, no? La notizia del matrimonio si è già sparsa per il paese e quindi io non ho difficoltà a chiedere denaro in prestito. E a proposito, nella busta troverai una somma che potrà esserti utile, mi ha trovato Rodia. Sì, non è un matrimonio d'amore, ma Petrovich Lucin capirà che la felicità di sua moglie sarà la garanzia per la sua felicità. Sono onorato che abbiate accettato la mia proposta. Sono infatti sempre stato deciso a sposare una giovane onesta, senza dote naturalmente, che avesse già provato cos'è la povertà. Penso infatti che un uomo non debba avere alcuna obbligazione verso la propria moglie. Sì. È meglio che essa consideri il proprio sposo come un benefattore. Petrovich Lusin ha degli affari che lo portano a Pietroburgo, dove vuole stabilirsi come avvocato. E io ho già pensato che tu, sotto le sue direttive, potrai cominciare la tua futura carriera. Non ho di certo bisogno di un segretario e sarò lieto di dare lavoro a un parente anziché a un estraneo, purché capace di adempierlo, si intende. Hai visto, Rodia? Come le cose hanno preso il giusto verso. Petrovich Lusin, ancora prima delle nozze, mi ha dato il permesso di raggiungerlo a Pietroburgo e quindi noi potremo finalmente riunirci. Io sono tanto felice, Rodia. Hai visto come la felicità può arrivare così inaspettata? Io sono tanto felice, così come un anello di vostra proprietà, si trovavano nell'appartamento della vittima, avvolti in un'unica carta, e sulla carta vi era scritto il vostro nome, così come la data in cui l'aveva ricevuti da voi. Mi avevo impegnato un paio di mesi fa, non riuscivo più a mantenermi con le lezioni private. Capisco, Matiuska, capisco. Quello che non capisco è come mai tutti i pignoranti siano subito venuti qui a riscattare i propri oggetti, tutti e tranne voi. Non stavo bene. Anche adesso siete pallido. O sbaglio? No, adesso sto benissimo, vi ringrazio. Ah, mi fa piacere. E ditemi, di che male avete sofferto? Febbre cerebrale. Ossessioni. Deliri. Deliri. Ossessioni. Deliri. Pensa che se potesse vivere anche in cima ad uno scoglio, su una superficie così stretta da poterci mettere sui piedi, con tutto intorno l'oceano, l'abisso, la tenebra eterna, la solitudine eterna. Se dovesse rimanere lì, in piedi per tutta la vita, per mille anni, per l'eternità, ebbene lui preferirebbe vivere così piuttosto che morire all'istante, vivere, capite, vivere, in qualunque modo, ma vivere, che verità, che assoluta verità, l'uomo è un vigliacco, ed è vigliacco chi per questo lo chiama vigliacco, al diavolo Petrovic Scilusi, non posso permettere che mia sorella si sacrifichi per me, perché è per questo che lo sposa. Elena Ivanovna, sono Rodion Raskolnikov, aprite. Elena Ivanovna, aprite. Ho qualcosa di molto prezioso per voi. Elena Ivanovna, sono Rodion Raskolnikov. Ne ho visti tanti di delitti. Questo però l'ho trovato particolarmente violento. La testa di quella vecchia spaccata. E l'assassino, come vi ho detto, ha preso soltanto alcuni oggetti preziosi e un centinaio di rubli. Sì, molto strano. Lasciandone ben 1000 in contanti in un cassetto semiaperto. Molto strano, non trovate? Sì, molto strano. E questo vuol dire che non ha ucciso per denaro. Che cos'altro allora? E chi lo sa? È così oscura la mente umana. A proposito di delitti, signor Raskolnikov, anche per voi è argomento di riflessione, o sbaglio? Il mio articolo. E qualche tempo fa ho avuto il piacere di leggere proprio un vostro articolo sul delitto, o sbaglio? Il mio articolo. Un vostro articolo sulla periodicescaria, o sbaglio? Accidenti, che memoria. L'ha scritto quando ancora facevo lo studente, collaboravo con qualche giornale. Lo ricordo perché mi colpì molto. Se non sbaglio, voi sostenete che il delitto è accompagnato da uno stato di malattia. Ma la cosa più interessante è l'idea che viene fuori dal termine del vostro scritto. Se non sbaglio, voi sostenete che al mondo esistono degli individui i quali possono, anzi, non solo possono, ma hanno il pieno diritto di compiere ogni specie di iniquità e di delitti, e per loro la legge è come se non fosse mai stata scritta. È così? O sbaglio? Ordinari e straordinari. Nel vostro articolo non dividete l'umanità in uomini, com'era la definizione precisa? Ordinari e straordinari, o sbaglio? Siete voi, Arkady Svridigailov, potete andare via subito. Comprendo il vostro astio, Rodion Raskolnikov, ma credetemi, è frutto di un equivoco. Voi pensate che io abbia insidiato vostra sorella, che l'abbia oltraggiata con proposte indecenti, approfittando del fatto che lavorava a casa di mia moglie, non è forse così? Andate via. Andate via. Provate a pensare però anche per un solo istante che in fondo io non sono che un uomo. È un uomo capace di innamorarsi. A questo punto io sarei un mostro o una vittima? Non mi interessa. E se fossi una vittima? Se con vostra sorella io vorrei sempre che cercare la felicità. Andate via, ma non lo vedete che sto male, che ho la febbre, andate via. Spero non darete retta a tutte quelle voci che girano sul mio conto. Voi non potete nemmeno immaginare a che punto può arrivare la cattiveria umana. Pensate, dicono perfino che io abbia ucciso mia moglie. Non vi interessa, voglio solo che ve ne andiate. Un tempo sì che eravamo una bella società, c'erano poeti, bari, intellettuali. Passavamo gran parte del nostro tempo a giocare a carte e a barare. Mi misero in prigione per debiti. Dovevo una grossa cifra a un greco. A quel punto che comparve Maria Petrovna. canteggiò e mi riscattò per la cifra di 30.000 rubli. Ci sposammo, mi portò nelle sue terre così come se fossi un qualcosa di prezioso. Aveva 5 anni più di me, voi capite. Mi amava. Per 7 anni non sono uscito da lui. Mi ricattava con un documento a mio carico girato dal creditore. Mi teneva prigioniero, insomma. Non potevo fuggire. Con vostra sorella invece sì. Sarei fuggito. Lontano. Posto dove nessuno ci avrebbe mai trovati. Perché esiste un posto dove si può non essere trovati? Avete ragione. Forse solo nell'aldilà si può non essere trovati. Come ve l'immaginate voi l'eternità, Rodion Raskolnikov? Non me la immagino. E se non ci fossero che ragni? Voglio dire, l'eternità ci viene rappresentata come qualcosa di grande, immenso, come qualcosa che non si può determinare. E se invece l'eternità non fosse altro che una piccola, buia stanza con le ragnatele e le pareti? E se non fosse altro che questo, l'eternità? Si può sapere perché siete qui? E voi non potete nemmeno immaginare la rabbia quando seppi che Maria Petrovna scopò quell'ometto di Petrovich Luzin per combinare le nozze con Dunia, per portarmela definitivamente via. Mia sorella non vi ama, questo ve l'ha portata via. Non mi ama. Non giurate mai su quello che può succedere tra due amanti. C'è sempre un angolino nascosto a tutti gli altri e noto solo a loro. Petrovich Luzin non è fatto per Dunia. E lei non lo ama. È un ometto, dedico il suo lavoro a guadagnare soldi. Dunia gli serve solo per sfoggiare una moglie buona e rimissiva in società. Ebbene, io ho deciso di andarmene, ma prima devo sistemare le cose qui. Devo incontrarmi con vostra sorella. Dirle che da Petrovich Luzin non potrà trarne alcun beneficio, ma anzi ne avrà di certo un danno. Poi, dopo averle chiesto scusa per i fastidi che ha patito a causa mia, le chiederei il permesso di offrirle 10.000 rubli, facilitando così la rottura con Petrovich Luzin, alla quale lei stessa, credetemi, non sarebbe contraria se ne avesse la possibilità. Voi siete pazzo. Ah, permettetemi di dire che offro questo denaro senza nessun secondo fine. Il mio pentimento è sincero. Non è mia unica prerogativa quella di fare solo del male. Ah, poi sto per sposarmi, dunque. Qualsiasi sospetto di eventuali mire su Dunia è del tutto infondato. Mi sposate, voi? Già, l'affare è concluso. Si tratta dell'ultimo genito di una famiglia che conosco qua a Pietroburgo. Compirà 15 anni tra un mese, pensate. Voi capirete, proprietario terriero, vedovo, che importa se 40 anni viene meno 15. E avreste dovuto vedere parlare con la mamma e il papà l'altro giorno. Arriva lei. Porta ancora il vestitino corto, pensate. Mi guarda e arrossisce. Allora io me la metto sulle ginocchia e non faccio altro che baciare. È la mamma che le dice che col signore suo marito, che dovrà essere così da oggi in poi, voi capite. 15 anni. Quelle lacrimucce di colore che le scendevano dal viso. L'innocenza. Vale più della bellezza. Siete disgustoso. Non mi interessa quello che pensate di me, Rodion Raskolnikov. Vi chiedo solo di intercedere per me con vostra sorella Dunia Aleksandrovna. Sarà anche piccolo, ma l'ho trovato molto interessante. Io ho solo formulato l'ipotesi che ci sono alcuni uomini che possono permettere alla propria coscienza di scavalcare certi ostacoli. Cosa intendete voi per scavalcare certi ostacoli? Io penso che se 10, 100 o 1000 uomini avessero tentato di ostacolare la diffusione delle scoperte di Kepler o Newton, allora questi ultimi avrebbero avuto il diritto, il dovere, di eliminare questi 10, 100, 1000 uomini per poter far conoscere le proprie scoperte a tutta l'umanità. Nel mio articolo faccio poi notare come i più grandi fondatori e benefattori della società umana furono e sono dei terribili spargitori di sangue. Continuate. Divido gli uomini in due categorie. Una inferiore, quella degli uomini ordinari, che serve solo a procreare individui simili, una superiore, quella degli uomini straordinari. che hanno il dono di dire una parola nuova. I primi mantengono l'ordine, vivono nell'obbedienza, i secondi violano la legge, distruggono in nome di qualcosa di nuovo. Sono loro che fanno progredire la società umana. Se uno di questi, per poter realizzare la propria idea, deve spargere del sangue, io dico che ha il diritto di farlo. Ma state tranquillo, perché quasi mai la massa riconosce loro tale diritto e più spesso li fa imprigionare e impiccare, assorbendo così in maniera perfetta la propria funzione conservatrice. Comunque, entrambe le categorie hanno uguale identico diritto di vivere. Padre mi voleva molto bene. Oggi mi è sembrato di vederlo, mi sembrava di camminasse davanti. Io voglio aiutarvi, Sonia. Grazie, ma avete già fatto abbastanza. Lasciate che vi aiuti ancora. Grazie, ma non ho bisogno del vostro aiuto. Come farete ad andare avanti? Come ho fatto fino adesso, devo pensare alla mia famiglia. Chi penserà a voi? Io penserò a me. Ed è facendovi vivere in questa miseria che Dio penserà a voi. Dio fa tutto per me. È Dio che mi tiene lontana dalla tentazione di lasciare tutto. Di farla finita, come dite voi. Io vi ho scelta, Sonia. La nostra strada è la stessa, andiamo via insieme. Lontane? Dove? Dovunque. Io vi ho scelta dal primo istante in cui vostro padre mi ha parlato di voi in quella vetrina davanti a quella bottiglia di vino. Io vi ho scelta. Io vi porterò via da questo fango che voi stessa odiate. vostre strade sono così lunghe. Oh, tanto grande la nostra amata madre Lucy. Pur desiderando un impegno di lavoro, mi è impedito di venirvi a prendere alla stazione. Spero almeno che questa sistemazione che vi ho trovato sia di vostro gradimento. Una catapecchia, per di più di pessima reputazione, però molto economica. Rodia, Petrovic Luzzi mi ha trovato una sistemazione degna. Io non potevo conoscere le cose qui, vengo dalla provincia. E poi sapete, chi lavora tanto come me per costruirsi una carriera, per garantire un futuro alla propria moglie e alla sua futura famiglia, incorre talvolta in inconvenienti. Sì, certamente. Non vi preoccupate, Petrovic Luzzi. Questa sistemazione andrà benissimo. Ho saputo che avete detto a mia sorella Dunia, proprio nel momento in cui stava accettando la vostra proposta, che quello che più amate di lei è la sua povertà, perché è più conveniente sposare una donna povera, per poterla dominare, per poterle rinfacciare tutti i benefici di cui la colmate. Ti prego, Rodia. Io non ho mai detto una cosa del genere. Se vostra sorella vi ha riferito questo, temo che quando l'ho fatto non fosse molto in seco la ragione. Parlate ancora così di mia sorella, vi sbatto fuori a calci. Ora state proprio esagerando, Rodia, un rascornico! Ti prego, calmatevi. Fatelo per me. È morta Maria Petrovna, l'avete saputo? Naturalmente. Ah, volevo informarvi che Arkadiusz Svidrigailov, subito dopo i funerali, partiva in gran fretta qui per Pietroburgo. Almeno così risulta da notizie molto attendibili che mi sono arrivate. Ah, a Pietroburgo, qui? Già, pare che non voglia lasciarvi in pace, ma non c'è da preoccuparsi. A patto certo che voi stessa non vogliate entrare in rapporti di alcun genere con lui. È un uomo vizioso, depravato, avrei certi racconti sulla sua persona da far venire i brividi. Ah, vi prego, Petrovic Luzin, non parliamo più del signor Svidrigailov. È venuto a trovarmi. Ha una proposta per te, Dunia. Quale proposta? Vuole offrirti 10.000 rubli. Ma perché? Lo dirò a te dopo. Ora basta. Vostro fratello continua ad offendermi, visto che non vuole parlare in mia presenza di certe proposte che il signor Svidrigailov fa alla mia futura moglie. A questo punto anche io non ho più voglia di parlare, tantomeno di restare qui. Se Rodia ti ha offeso, è giusto che ti chieda scusa, e lo farà. Certe offese non si possono perdonare. Prego, Petrovic, siate la persona intelligente e nobile che io conosco. Se non farete pace, io sarò costretta a scegliere tra mio fratello e mio futuro sposo, e non voglio farlo. Mi mettete sullo stesso piano di un giovanotto arrogante. Dite di dover scegliere tra me e lui. Beh, questo mi fa capire quanto poco ci teniate a me. Io vi ho messo sullo stesso piano di mio fratello. Di colui che finora mi è stato più prezioso nella vita, dite che lo tengo a voi. L'amore per il futuro marito deve essere più grande di quello per un fratello. Mi offendete se mi mettete sullo stesso piano. Vostro fratello è una persona di dubbia moralità. Ma che cosa dite? Si dice che abbia dato dei soldi alla figlia di un certo funzionario morto in un incidente qualche giorno fa. Ebbene, io so chi era il funzionario e tutti sanno chi è la figlia. Una puttana, una donna che non è nemmeno degna di essere nominata qui tra persone per bene come noi. Io dico invece che voi non valete il dito mignolo di quella ragazza, Petrovic Luzin. Ora basta, me ne vado. Così non turberò più il vostro piacevole incontro di famiglia. In futuro spero di essere esonerato da simili incontri con persone come vostro fratello. È chiaro, Dunia Alexandrovna? Petrovic Luzin, non vi permetto di giudicare il mio Rodia così superficialmente. Perdonatemi. Però mi sembra che voi desideriate soltanto avermi a vostra totale disposizione. Devo sempre e solo considerare ogni vostro desiderio come un ordine. Dovreste essere più tollerante, invece. Soprattutto adesso, che sono venuta qui e ho lasciato tutto affidandomi a voi. Non mi pare che abbiate tutta questa fiducia, se questo è il vostro modo di parlarmi. Saranno i 10.000 rubli di Svidrigailov che vi danno tutto questo coraggio? Non permettete. Mi permetto, e se non mi chiederete scusa me ne andrò. Bene. Andate. Guardate che se uscirò di qui con un simile commiato, potete starne certa, Dunia Alexandrovna, che io qui non ci tornerò mai più. Non voglio affatto che torniate. Ma come vi permettete? Con quale diritto? No, con quale diritto voi? Parlate in questo modo. Ma con il diritto di chi vi ha preso, nonostante in paese girassero certe voci sulla vostra reputazione. Ah, ma finalmente ho aperto gli occhi. Sì, ho capito di aver fatto male a non dare retta a certe voci. Del figlio e della madre. figlia della madre, nel nome del padre, del figlio e della madre, nel nome dell'essere umano, nel nome dell'essere umano, nel nome del padre, del figlio e della madre, nel nome del padre, del figlio e della madre. Semplice burocrazia, invece questo è un vero e proprio interrogatorio. Oh, santissimo Dio, ma cosa dite? Su cosa dovrei interrogarvi? Vi prego, state tranquillo, Rodio Raskolnikov, non vi agitate e siete padroni di uscire quando volete. Ma prima però, toglietemi questa piccola curiosità. Voi a quale categoria appartenete? Siete un uomo ordinario? Straordinario. Io mi definirei ordinario. Sono uno scapolo senza conoscenti. Sì, chiuso nel suo guscio. Vi siete mai accorto che quando si incontrano due persone intelligenti che non si conoscono ancora molto bene, ma che si apprezzano a vicenda, per una mezz'ora non hanno un argomento su cui parlare? E da cosa dipenderà, secondo voi? Forse non abbiamo interessi in comune, oppure non vogliamo ingannarci a vicenda. Interrogatorio, ma cosa dite, Matiuska? Le nostre sono soltanto quattro chiacchiere tra amici e considero gli interrogatori profondamente noiosi, giochi psicologici senza senso. Sì. Vi confesso che se ritenessi colpevole qualcuno di omicidio non lo disturberei prima del tempo, anche se avessi degli indizi contro di lui. Certo, Matiuska, se lo metto in galera io gli do un appoggio morale. Non ci credete, vero? State sorridendo. Eppure è così. Mettendolo in galera io gli do una posizione ben definita. Lo tranquillizzo psicologicamente. Io invece non lo disturbo, lo lascio libero. Ma deve trovarsi costantemente in uno stato di sospetto, finché perderà la testa e si presenterà da me. Potrebbe scappare, dite voi. Ma scappare è una cosa formale. Ciò da cui non scapperà mai è egli stesso. Avete presente una farfalla con una candela, eh? Il nostro sospetto mi girerà intorno come una farfalla davanti ad una candela. libertà cesserà di essere di cara, si impiglierà dei suoi pensieri. Egli continuerà a girarmi intorno in cerchi sempre più stretti, sì, fino a quando mi volerà in bocca. E io lo inghiottirò. E questo, credetemi, è un gran piacere. Come il ricordo che di voi lascerete su questa terra. Sempre con lo stesso sangue per cui si è incoronati di imperatore, per cui ci si fa amare e nominare benefattori dell'umanità. Voi fate parte del formicaio, non vi rendete neanche conto di tutto quello che vi capita intorno. non sono. Della vecchia usuraia, io non lo permetterò, non lo permetterò, non lo permetterò. Ma che ti prende? Non ma lo chiuso? Permetterò, non lo permetterò, non lo permetterò, non lo permetterò. Così finirete per diventare pazzo! Avete sempre mentito dal primo momento che ci siamo incontrati, volevate solo farmi crollare, farmi confessare, io non lo permetterò. Mentire io? Non lo permetterò, non torturatemi, arrestatemi, perquisitemi, ma non giocate con me. Vi prego, non torturatemi, non torturatemi, non giocate con me, arrestatemi, perquisitemi. Ma io non ho nessuna intenzione di torturarvi, Batiusca. Io sono qui per portarvi via da questo fango che voi stesso odiate. La nostra strada è la stessa. È stato detto che non avete desiderio di vedervi. Vorrei sentirlo dire da voi personalmente, se non vi dispiace. Andate via, lasciatemi in pace. Guardate in fondo al vostro cuore e ditemi che non avete desiderio di vedermi. Dovete essere sincera, però. Io e Maria Petrovna facemmo un patto. Non mi sarei dovuto innamorare mai di nessuna. Ma poi arrivaste voi a lavorare in casa nostra, appena vi vidi dentro di me entrarsi questa promessa, così senza volerlo. Vi costrisi a non guardarvi nemmeno, per prudenza. Poi Maria Petrovna diventaste lì. Lei vi parlò di me, della mia vita. Voi cominciate a provare pietà. Pietà per un uomo perduto. Che cosa si può provare per voi se non pietà? Quando il cuore di una ragazza prova pietà, corre il più grande dei pericoli. Lo sapete, che viene voglia di salvarti, di resuscitarti. Volevate riportarmi sulla retta via. Già, e ho fallito, quanto vedo. Vi state vicino di me, sono innamorato di voi, e voi stavate cominciando a provare per me lo stesso affetto. No, non è vero, vi sbagliate. No, vi sbagliate. La più difficile della sincerità è più facile della durazione. Se poi sapeste quanto possono essere intensi i vostri occhi in certi momenti. Io non riuscivo nemmeno più a sopportare il fruscio delle vostre vesti, avrei fatto di tutto per voi. Se voi mi aveste chiesto di scannare Maria Petrovna e di fuggire insieme, l'avrei fatto senza il minimo indugio. Che cosa dite per me? Andiamo via insieme, Dunia. Andremo in un posto dove nessuno ci potrà mai trovare. Guardate in fondo al vostro cuore! Andate via! Non potete dunque proprio amarmi. Mai. Mai. Vi chiedo solo una cortesia. Fate presto. Io non vi posso amare. Voi siete un vigliacco. Un assassino, ma come posso amarvi? Vostra moglie mi picchiava. E mi disonorava a causa vostra, e voi... Zitto! Avete sposato una donna che non amavate per vivere con i suoi soldi e poi l'avete uccisa. Sposato una bambina per noia, ma come posso amarvi? Venite qua a dirmi che volete scappare con me. Avrei potuto amarvi. Sì, forse per un attimo vi ho anche amato. Quando mi adulavate, quando mi mentivate di essere un uomo che non siete. E quell'uomo vi ho amato per un istante. Ma quell'uomo non esiste. Voi siete un uomo perso. Mettete la vostra vita nelle mie mani. E mi chiedete di farvi da giudice. Ebbene, io vi condanno a vivere al Cadispi dei Gailov. 730 passi, giusto? Come? La distanza tra casa vostra e la casa della vecchia usuraia. 730 passi. Li abbiamo fatti tutti quella mattina, ricordi? Uno, due, tre, quattro. Fino alla porta. Aprite, Levano, aprite! Ho qualcosa di molto prezioso per voi. Vi sbagliate, non ero io. Siamo entrati, ci siamo guardati intorno per essere sicuri. E quando la vecchia si è voltata, sequestrato dal potere del cappotto un'ascia. I suoi capelli radi, unti di olio, raccolti in una treccina fissata alla nuca da un piccolo pettine. Ha avuto la forza di alzare le braccia per difendersi. In mano aveva ancora il nostro prezioso oggetto. Due colpi. Il sangue uscì a fiotti. Abbiamo fatto due passi indietro, ricordi? Mi sbagliate. Io ho bussato, poi sono scappato via perché avevo paura. No, Rodia. È ora di ricordare. Di ricordare il nostro fallimento. Era Ivano, aprite. Sono Rodio Raskolnikov. Aprite, Elena Ivanovna. Qualcosa di molto prezioso per voi. Perché l'abbiamo uccisa, Rodia? Perché avevo bisogno di soldi. No, Rodia, perché? Per mia sorella Dunia. No, Rodia, tu lo sai perché. Perché il potere spetta a chi osa chinarsi a raccoglierlo. Perché bisogna distruggere tutto ciò che va distrutto e prendere il peso del dolore sulle nostre spalle. La libertà e il potere, ma soprattutto il potere. Su tutte le creature pavide e su tutto il formicaio. Dove sei, Rodia? Nell'ufficio del giudice istruttore Porfiri. No. Noi non ci siamo mai mossi da qui dentro. Io sono il silenzio che deve inesorabilmente passare prima di udire un suono. Elena Ivanovna, la vecchia usuraia che vive a 3 isolati da qui. Elena Ivanovna, Elena Ivanovna. Ma sì, certo, quella vecchia strega che ha preso a denaro in cambio di oggetti. Sono stata 4 giorni fa, ho portato una cornice d'argento, ho pertenuto a mio padre.